conto della tua tolleranza. Che avvenne, spiegati, andasti al tempio. Andai, ma chiuse ne ritrovai le porte. Sarà bastante, sai, di Sibia la fede per sostenerla. Ed in Sibia confidi, ed al tempio si via. Perfida! E quando fedel ti sia, che puoi sperarne? Gli empi, gli infidi, gli strugi abbatti, in ceneri ci uccidi.